Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1864, la strage di Torino. Gli allievi carabinieri erano alla questura. Truppe di linea stanziavano d'amboilati sotto i portici di Piazza San Carlo. Verso le 9 entrano nella piazza migliaia i dimostranti. Alcuni, cioè i provocatori, tirano contro gli allievi carabinieri sassate e due colpi d'arma da fuoco. Gli allievi carabinieri escono dalla questura e si dispongono sulla piazza facendo fuoco senza intimazione, tenendovisi autorizzati dai colpi avuti. Sopra una folla compatta ogni colpo fa una vittima, ma l'orrore si accresce per un caso inaspettato. Mentre le palle tirate più in basso colpiscono cittadini, altre, o più alte, o passando nei vani, vanno a ferire di qua e di là i soldati, che credendosi aggrediti anch'essi, per un terribile equivoco, prendono l'armi e sparano alla loro volta sopra la moltitudine presa da tre parti. L'atroce spettacolo che allora presenta Piazza San Carlo si può meglio immaginare che descrivere. La piazza ha l'aspetto di un macello di carne umana. I cadaveri, dopo essere stati lasciati qua e là alcun tempo, vengono ammucchiati contro il monumento. Questo articolo della Gazzetta del Popolo dice tutto, anche se non racconta che in parte l'orrore della strage di Torino di questi giorni. I morti sono una cinquantina, i feriti 170. E dire che la protesta contro la Convenzione di settembre che stabilisce il trasferimento della capitale da Torino a Firenze come garanzia per il ritiro delle truppe francesi da Roma era partita pacificamente. La popolazione torinese, tra l'altro poche persone, è scesa nelle strade il 21 settembre in una città affollata di soldati provenienti dalle altre province d'Italia. Qualcuno dice che il ministro Peruzzi abbia cercato lo scontro utilizzando anche dei provocatori. Non lo sappiamo, ma i fatti bastano a condannare il governo. Il 21 settembre i manifestanti si radunano in piazza Castello davanti alla questura. Alle 19.30 l'esercito disperde la folla con le baionette senza preavviso. Un ragazzo viene ferito. Da via Roma si avvicina un'altra folla con tamburi e bandiere. A quel punto si sente un colpo di fucile, ma arriva da via Po. Gli allievi carabinieri però perdono la calma, aprono il fuoco sulla folla di via Roma. Bilancio 47 feriti gravi, 16 morti. Il giorno dopo la protesta riprende mentre il sindaco di Torino, il marchese di Rorà, protesta con Peruzzi. A Torino arriva la Guardia Nazionale, ma soldati aggiunti a soldati peggiorano le cose. Anche per errore di comunicazione qualche reparto inizia a sparare e alla fine si contano 23 cadaveri in piazza San Carlo, altri 15 nelle farmacie negli ospedali cittadini, oltre 100 i feriti. Il discredito del governo è totale, il re gli ha imposto le dimissioni. A sostituire Minghetti sarà in ogni caso un duro, il generale La Marmora. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.